Radio. Il giorno della verità per il Kenya, della maturità, del sistema e della democrazia. La crisi in Sud Sudan, ben lontana da una sua risoluzione, è un'altra crisi tutta politica in Sudafrica, con il presidente Jacob Zuma sottoposto a un voto di sfiducia. Benvenuti in questo programma. Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci. This year there's really a great sense of anger. Tanti civili si sono armati proprio per l'altissimo numero di rappresaglie. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro osservatorio su tutto quello che accade al di fuori dei confini italiani, luoghi lontani soprattutto, ma anche un po' più vicini a noi. Questa è una puntata tutta africana, lo avete sentito dai titoli. I temi che tratteremo quest'oggi li potete commentare al 349-238-6666. Vi ricordo che il numero vale sia per WhatsApp, che è qui sotto i miei occhi, che per gli SMS. Poi siamo su Twitter con Nessun Luogo 24 oppure Jumpaz, questi due account ai quali potete cinguettare. Poi c'è la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 e lì c'è anche la diretta video per poterci seguire. Allora, prima pagina tutta dedicata al Kenya, ed è lì che io vi porto. He's known for his charisma, embracing social media to talk to Kenyans. And despite his personal wealth, has established himself as a man of the people. But Uhuru Kenyatta's first term as president has not been without controversy. He entered office denying charges at the International Criminal Court of crimes against humanity. Kenyatta and Deputy President William Ruto were accused of instigating violence following disputed polls in 2007. E tutte le TV keniane, non solo, ma anche le TV internazionali, ieri alla vigilia del voto ricapitolavano un po' la storia dei due candidati. Lo avete sentito, si vota per la figura del presidente ma anche per i governatori locali. È una giornata molto importante questa per il Kenya. L'hashtag da seguire su Twitter, se ce l'avete sotto mano, è Kenya Decides, cioè Kenya decide. Da seguire sicuramente la voce che avete sentito nei giorni scorsi, Daniel Finnan, il collega di Radio France International English Service, che sta seguendo appunto l'appuntamento elettorale. Le voci che avete sentito prima durante il servizio internazionale erano quelle relative a Uhuru Kenyatta, che è appunto uno dei due sfidanti, presidente uscente, che viene sfidato da Raila Odinga, 72enne, 55 anni invece Kenyatta. Raila Odinga già primo ministro. Allora, in questi minuti si stanno chiudendo i seggi, tra qualche ora potrebbero uscire già i primi risultati parziali in merito dell'introduzione del voto elettronico, lo avete sentito anche dal GR, voto elettronico che aveva una figura, il suo tutore, il suo ideatore e controllore, lo ricorderete, è stato assassinato pochi giorni fa, proprio alla vigilia di questo voto, e questo assassinio aveva creato ovviamente paura. La paura di possibili violenze resta. Perché? Perché, come ricordava anche il Washington Post molto molto recentemente, il voto è estremamente polarizzato e gli ultimi giorni di campagna elettorale pare che a poco servano a spostare gli equilibri. Insomma, difficile cambiare idea. Secondo gli ultimissimi sondaggi, Uhuru Kenyatta sarebbe al 47%, mentre Raila Odinga sarebbe al 42%. Da notare, è importante, la popolazione dei votanti, a dispetto al quantomeno del secondo candidato, è estremamente giovane. Per l'80% della popolazione keniana è sotto i 35 anni, più del 50% dei 19 milioni di votanti è proprio sotto quella soglia. Poi, oltre allo spettro di possibili violenze, lo ricorderete, nel 2007 i risultati contestati portarono a più di 1000 morti, C'è un altro tema che campeggia, per esempio, su Jeune Afrique, che, se lo leggete, è un magazine settimanale cartaceo in francese sull'Africa, ma esiste anche una versione online, e racconta l'inquietante fenomeno delle fake news, cioè delle false notizie che sono state messe online. Ve ne leggo una che è particolarmente indicativa, questa è apparsa su alcuni siti, e praticamente disegna e tratteggia quello che sarà il Kenya nel 2020. E l'articolo, molto spesso questi articoli recano finti o simili loghi a BBC e CNN, quindi per dare l'idea, insomma, di essere veritieri. Insomma, tratteggia un Kenya nel 2020 con Raila Odinga presidente a vita, una costituzione revocata e un parlamento sciolto. Non c'è più acqua, non c'è più denaro, e il gruppo terrorista somalo Al-Shabaab controlla il nord-est del Kenya. Tutto questo per dire che è una campagna elettorale che è stata combattuta con tante armi. C'è chi punta il dito contro i due candidati dicendo: attenzione, i discorsi sono stati fin troppo carichi di odio nelle ultime settimane. Le fake news, la propagazione di informazioni false, fanno parte di questa di questo gioco, di questa campagna. Allora, come mia abitudine, prevengo immediatamente un po' di sms e di whatsapp che potreste pensare di inviare, ad esempio: ma cosa ce ne importa delle elezioni in Kenya? Beh, guardate, le agenzie ci restituiscono una notizia che è proprio di poche ore fa. Maltauro, azienda italiana delle costruzioni, avrebbe concluso una commessa in Kenya da 390 milioni di dollari per la costruzione di una cittadella altamente tecnologica al di fuori di Nairobi. Ecco, questo per dire come molto spesso paesi apparentemente lontani sono motivo di interesse anche per le aziende e per l'apparato industriale italiano. Detto ciò, è il paese, un paese importante, un paese relativamente pacifico da anni. È vero che c'è il dossier somalo, perché l'esercito keniano è impegnato in prima linea ormai da 4 anni contro i militanti da Shabab, perché i due paesi confinano, perché il porto di Kismayo è molto importante, perché vi sono state scorribande, rapimenti e azioni terroristiche in territorio keniano. E a un certo punto Nairobi ha detto basta e ha coinvolto in maniera massiccia anche l'esercito. Ma torniamo all'appuntamento elettorale, perché è importante. Abbiamo fatto la stessa domanda a Benji Ndolo, analista, osservatore politico da Nairobi: quanto è importante il voto di oggi per la storia keniana? Sentite. L'importanza di oggi consiste nel testare la nostra democrazia, il nostro sistema, la nostra capacità di scegliere una classe dirigente. Consiste nell'affrontare un'elezione con la fiducia del popolo che il sistema può funzionare e che tutto andrà secondo le loro decisioni e le loro scelte, e che non avremo elezioni contese o sospetti di manipolazione e furto del voto. Tutto ciò corre di pari passo con la democratizzazione del paese, che, come è noto, in Africa è una sfida. In più, le elezioni di oggi sono importanti per l'accountability, per dimostrare che i leader eletti possono essere chiamati a rispettare il mandato che è stato assegnato loro dai cittadini. La voce che sentite è quella di Benji Ndolo, che è un analista politico, un osservatore keniano di base Nairobi. Lo abbiamo raggiunto proprio un paio di ore fa. A lui ho rivolto la stessa domanda che, come dire, campeggiava nella mia preoccupazione nel raccontarvi quanto riportato da Jeune Afrique, cioè la diffusione piuttosto invasiva di fake news, cioè di notizie false, che potrebbero orientare ovviamente il risultato del voto. Cosa ne pensa Benji Ndolo? C'è il rischio che le fake news inquinino le elezioni? Sentite. Sì, è vero. C'è stata una diffusione di fake news e di propaganda e di costruzione di fatti completamente inventati. Ma se devo essere onesto, mi sembra che sia avvenuto comunque in misura un po' minore rispetto alle elezioni americane. Non mi pare che in Kenya siamo ancora arrivati al punto in cui le notizie false travolgono e sostituiscono le notizie vere. Però sì, le fake news rappresentano una preoccupazione e denotano che il contesto keniano è molto diviso e avvelenato, al punto che la gente è disposta a credere a qualsiasi cosa legga o veda in TV, purché vada contro il candidato che non le piace, mentre concede fiducia assoluta alle notizie a favore del candidato preferito. Ecco, siamo di fronte a quel fenomeno delle casse di risonanza che non aiuta molto la democrazia. È triste ritrovarsi a credere a qualcosa di falso solo perché favorisce il tuo candidato, perché poi diminuisce la tua capacità di criticarlo. qualsiasi candidato, con tutta la buona volontà, può avere nel suo entourage persone poco pulite o corrotte. Quindi dovremmo arrivare al punto in cui ci si libera dalle casse di risonanza e si può punire elettoralmente anche il proprio candidato preferito, ristabilendo la funzione del giornalismo. Anche in Kenya, senza la ricerca della verità, non ci sono né giornalismo né media. Intanto vi do conto di una dichiarazione del presidente uscente Kenyatta che ha detto: accetterò il risultato del voto. Questo evidentemente per stemperare fin dall'inizio quelle che potrebbero essere, scusate la ripetizione, intemperanze da parte dell'elettorato, sempre tenendo a mente quello che successe nel 2007 con oltre 1100 morti. La campagna elettorale dei due candidati si è giocata su alcuni binari, su alcuni dossier che sono sul tavolo dell'importante paese africano. Alcuni sono di politica estera, ma ne parleremo dopo. Però è chiaro che la politica interna è quella che ha spadroneggiato. Kenyatta ha promesso, per esempio, 1 milione di posti di lavoro nel paese. Stiamo parlando della seconda più grande economia in tutta la regione, ma comunque di un paese che ha almeno il 20% di tasso di disoccupazione. L'altro grosso problema è il costo della vita. Ebbene, Kenyatta ha promesso di andare a lavorare su questi fattori. L'altro grande problema che accomuna altri paesi africani è il problema della corruzione. L'organizzazione Transparency International ha posizionato il Kenya al 145esimo posto su 176 nel 2016 nella speciale classifica della trasparenza e dell'assenza di corruzione. Il rivale Odinga ha detto che vi sarà lotta senza quartiere appunto alla corruzione. Ma torniamo a Beji Ndolo, che è questo analista politico, osservatore di base a Nairobi, che abbiamo raggiunto un paio d'ore fa, al quale abbiamo chiesto: un altro dei pericoli è quello della violenza. Molti media occidentali hanno ricordato i tragici fatti del 2007. Condivide questa paura? È un'esagerazione dei media europei e americani? Sentite. Penso che la possibilità di uno scoppio di violenza è sempre incombente. E in particolare, quest'anno si avverte davvero un senso di rabbia nell'aria. La gente è infuriata dopo l'applicazione di una riforma sulla devolution che non è andata come ci si aspettava. Quindi c'è ancora molto debito pubblico, c'è molta corruzione, molta manipolazione dell'elettorato attraverso la mentalità tribale. Se dovessero venire fuori delle lamentele per qualche intrallazzo nel conteggio delle schede, alla luce di questa rabbia diffusa, tutti quanti, cittadini e leader, specialmente dell'opposizione, non sono disposti a tollerare nulla che non sia trasparente. Quindi potrebbero esserci delle dimostrazioni di disobbedienza civile e l'esercito non sta facendo molto per migliorare il clima, perché sta accumulando armi e sta diffondendo avvertimenti. Però finché il popolo avverte che il voto è trasparente, finché non ha l'impressione di essere rimasto in fila per 6 ore alle urne per poi restare ingannato, allora i rischi di violenza diminuiscono. E quello che non è certamente diminuito è il tempo di attesa alle urne, perché come avete anche sentito dal GR, e se andate a vedervi un po' di foto, ripeto, se siete su Twitter, Kenya Decide è l'hashtag giusto per seguire le elezioni, se no vi suggerisco il nostro compagno di viaggio Marco Longari di FP, che avete sentito che stava coprendo un paio di giorni fa le elezioni in Ruanda, è lì adesso a seguire le elezioni in Kenya, e lo potete cercare su Facebook oppure su Instagram. Ebbene, da mezzanotte, dall'una, dalle due del mattino della scorsa notte, la gente era già in fila per andare appunto a esprimere la propria preferenza. E in mezzo a queste file si è poi creato un piccolo giallo, tutto keniano se volete. Per saltare la fila, alcuni elettori si presentavano con bambini piccoli in braccio, dicendo: scusate, ho un figlio piccolo, fatemi passare. Insomma, sostanzialmente veniva preparata una corsia privilegiata per questi elettori. A un certo punto gli addetti al seggio hanno dovuto iniziare a marchiare con l'inchiostro blu anche le dita degli infanti, dei neonati, dei piccoli bambini, perché questi bambini sostanzialmente venivano riutilizzati da diverse persone per poter saltare la fila. Vabbè, nota, piccola nota di colore. fare. Allora, c'è un altro rischio, parlando delle violenze, che un annuncio troppo procrastinato, cioè aspettare troppo ad annunciare i risultati, possa creare tensione ovviamente nell'elettorato. Sentite, rispetto a questo rischio, che cosa risponde Benji Ndolo. I believe that the first results, because there's a lot of electronic... Penso che siccome stiamo usando diversi strumenti elettronici per la rilevazione, intorno alle 8 o alle 9 di stasera, ora locale, potremo avere una proiezione affidabile di dove si sta orientando il voto. La speranza è che la gente vada a letto intorno alle 11 o a mezzanotte, con la sensazione di non doversi aspettare qualche sorpresa al risveglio. Se un candidato viene proclamato vincitore senza il sospetto che abbia rubato, allora si può mettere a lavorare sul mandato che gli è stato fornito dagli elettori senza trascorrere i mesi a dover dissipare le accuse di elezioni truccate, come era successo nel 2013. Questo sarebbe un ottimo risultato, non da un punto di vista parziale, ma per tutti i keniani e per il governo. Allora, questo è Nessun Luogo Lontano, prima pagina tutta dedicata alle elezioni in Kenya, elezioni importanti per tutta la serie di dossier che vi ho presentato: le infrastrutture, la crisi economica, la mancanza di posti di lavoro, anche la stabilità del paese che attrae investimenti. Vi citavo la commessa Maltauro, appunto vicino a Nairobi, l'industria del turismo, perché la costa keniana da sempre è, come dire, oggetto delle attenzioni anche del turismo italiano, e complice la crisi con la Somalia, la presenza di Al-Shabaab ha avuto sicuramente dei contraccolpi negativi. Le questioni, chiunque sarà il nuovo presidente, le ha ben sintetizzate qualche giorno fa Daniel Finnan, che vi citavo prima, giornalista di RFI, Radio France International, English Service. Vi faccio sentire ancora la sua voce, perché molto sinteticamente ricapitola quali sono le grandi urgenze per il nuovo presidente keniano. Il pilastro del governo di Kenyatta è stato il suo grande progetto di infrastrutture, come la Standard Gauge Railway, che è stata lanciata all'inizio di quest'anno. Penso che intenda proseguire su questa strada e sta impostando la sua campagna sul miglioramento delle infrastrutture keniane, lanciando grandi progetti per la creazione di nuovi posti di lavoro. Allo stesso tempo c'è un po' di preoccupazione nel settore pubblico. Ad esempio, lo scorso anno c'è stato uno sciopero degli infermieri che ha paralizzato gli ospedali, e si rincorrono ovunque accuse di corruzione, che in Kenya è un problema da lungo tempo. E ovviamente ci sono preoccupazioni sulla sicurezza. Da circa 2 anni il Kenya è oggetto di un numero crescente di attacchi da parte del gruppo islamista Al-Shabaab. Il Kenya era coinvolto negli scontri in Somalia, faceva parte della forza di peacekeeping dell'Unione Africana. Quindi il problema sicurezza c'è sempre stato, e il prossimo presidente keniano dovrà affrontare anche questo. E questo era Daniel Finnan di Radio France International, che in questo momento, fra l'altro, se lo volete seguire su Twitter, è particolarmente attivo. Poche ore fa ha postato il video del voto di Odinga, che fra l'altro è andato a votare proprio nello slam principale di Nairobi, che è in qualche modo la roccaforte dell'opposizione. Daniel Finnan citava il dossier somalo, che è molto importante. Allora, per avere lumi e per capire meglio qual è la relazione tra Kenya e Somalia, do il buongiorno e il ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Emilio Ernesto Manfredi, analista, ricercatore, lavora per International Crisis Group e ha uno spiccato animo da romanziere. Vi ricordo il suo libro La vita è brutale e poi muori, edito da Mondadori. Però Emilio, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti voi. Grazie, allora, grazie per la presentazione, ti abbiamo perso, aspetta, vediamo se la linea ci soccorre. Emilio? Niente, andate, eccolo. Non riusciamo a capire, ecco, se la linea è brutale e poi muore, oppure speriamo che la linea sopravviva. Mi sentite? Ecco, perfetto, adesso ce l'abbiamo fatta, insomma. Allora, fra l'altro, Emilio, se ricordavo, insomma, la tua anima da romanziere, la vita è brutale e poi muori, edito da Mondadori, tutto ambientato tra Calabria e Costa d'Avorio, dove peraltro adesso ti trovi, ma hai frequentato e conosci molto bene il teatro sia somalo che

e tante altre cose, anche stupefacenti, si dice. Una buona parte di questi prodotti entrano nel mercato del Kenya, ma devono attraversare per raggiungerlo i territori del sud, che sono ancora controllati dal Shabab. Allora, la forza militare keniana, che è incaricata, diciamo, che ha mandato di combattere al Shabab e di eliminare il pericolo alla frontiera del proprio paese, in realtà si dice affari, ed è abbastanza stato verificato da molti ricercatori, sì. Fa affari con al-Shabaab stesso, perché soprattutto lo zucchero, ma anche molti altri prodotti ad uso commerciale che entrano in Kenya illegalmente, vengono portati da Kisimayo dentro al Kenya sui veicoli militari, e passano in accordo con al-Shabaab per i territori controllati da al-Shabaab, a cui l'esercito keniano paga una sorta di pecca, diciamo, una sì. sorta di tassa per permettere appunto questo passaggio. Dunque si crea un'economia di guerra molto complicata e molto oscura, per cui dietro la lotta al terrorismo e la lotta alla minaccia di al-Shabaab nei confronti del territorio keniano si annida anche un interesse dei capi militari e anche di alcuni capi politici keniani a rimantenere le truppe all'interno della Somalia, perché questo business possa continuare ad alimentare un grosso esteso sistema di corruzione che tocca, insomma, i gangli importanti dello Stato keniano. E vedremo se il nuovo presidente, quello che scaturirà dalle decisioni, dalle urne di quest'oggi, i primi conteggi potrebbero essere le prime proiezioni già disponibili da questa sera, andrà a risolvere anche questo problema, questo dossier. Grazie mille, Emilio Ernesto Manfredi, analista politico, ricercatore per International Crisis Group. Ricordo anche il suo libro La vita è brutale, poi muori, di Mondadori, un romanzo bello, a me è piaciuto, ve lo consiglio, ottima lettura estiva, un po' cruda se volete, come avete sentito dal titolo, ma tant'è. Grazie mille Emilio, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi, buona giornata. E con un occhio sempre alle agenzie e all'hashtag, vi dicevo, Kenya Decides, per sapere le ultimissime, per ora, tranne la dichiarazione di Kenyatta che vi ho riportato, accetterò il risultato del voto, non vi sono grandissime nuove. Allora è il momento di riaccendere i riflettori su una crisi dimenticata, gravissima, nel cuore dell'Africa. Andiamo in Sud Sudan. (349) 238-6666, WhatsApp, SMS, la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano - Radio 24, Twitter, gli account sono Giampaz oppure Nessun Luogo 24. C'è chi dubita del fatto che si possa dire keniano o keniota, in realtà sono corretti entrambi, una volta si usava di più keniota. Abbiamo controllato anche sulla Treccani, sono entrambi corretti. E poi c'è chi mi dice chi se ne frega dell'Africa, ma lo dicevo, forse a lei, caro ascoltatore, non gli interessa niente dell'Africa, ma alle aziende italiane, per esempio, interessa e parecchio. È una commessa a 390 milioni di dollari per un'azienda italiana, beh, direi che è un ottimo motivo di interesse. Detto ciò, esiste anche un'importanza strategica e geopolitica del paese che vi ho appena raccontato, il Kenya. Se secondo lei nel 2007 1100 morti non sono meritevoli di attenzione e di notizia, figuriamoci adesso che le parlo del Sud Sudan. Il Sud Sudan è il più giovane degli stati africani e ha celebrato l'indipendenza il 9 luglio del 2011. È uno stato molto ricco di petrolio e di materie prime. Chi segue un po' le vicende sudanesi e sud-sudanesi sa che fondamentalmente il Sud Sudan c'è il petrolio, le raffinerie ce l'ha invece il Sudan a Khartoum. Quello che è successo è che subito dopo la sua indipendenza è stato funestato da una guerra civile che ancora non è risolta. Al momento le stime variano e sono anche difficili da sostanziare: 3 milioni e mezzo di persone hanno abbandonato la propria casa, stiamo parlando quindi di sfollati lati interni, l'economia sta andando a rotoli, negli ultimi anni l'inflazione è arrivata a tassi, pensate, dell'800%. La guerra civile che si consuma, si combatte tra Salva Kiir, che è stato il primo presidente appunto a partire dal 2011, e il suo ex vicepresidente Riek Machar, da molti viene bollata e connotata come anche crisi, conflitto di natura etnica. Il primo è Dink, il secondo è Nuer. In realtà sono in gioco anche interessi economici piuttosto grossi, ma il problema umanitario alimentare è la prima parte, la prima aspetto, il primo aspetto che vorremmo sottolineare. Abbiamo raggiunto padre Colizzi, che è reduce da una missione in Sud Sudan. Il Sud Sudan, ve lo dicevo, è il più giovane degli stati africani. Che fotografia ci restituisce padre Renato Colizzi? Sentite. Innanzitutto il paese, ma non solo il Sud Sudan, un po' tutta la zona, quella zona dell'Africa, è presa da due grandi problematiche che stanno letteralmente accasciando la popolazione civile. La prima è, come diceva lei, la guerra civile, che significa sostanzialmente una guerriglia che spesso va a colpire i civili, sia come rappresaglie che come vittime negli scontri. E la seconda è la carestia, perché quella zona dell'Africa è cronicamente esposta a delle carestie, ma così grave come quest'anno le Nazioni Unite l'hanno dichiarata solamente nel 2011. È la carestia che già all'epoca in Somalia, in Eritrea fece tantissimi morti, così si sta ripetendo adesso anche in Sud Sudan. Sì. Ora, il problema di queste due problematiche insieme è che la popolazione civile non può quindi uscire pacificamente a coltivare, non c'è pioggia, non c'è acqua e quindi rischiano e di fatto stanno morendo di fame. La voce che avete sentito è quella di padre Renato Colizzi, che è anche medico, che ha fatto una missione di un paio di settimane e non soltanto a Giuba ma anche in altre città, quindi non solo la capitale ma anche i centri più piccoli. Quali le differenze? Sentite. Allora, la capitale è innanzitutto già più, diciamo, sviluppata, con diverse ONG che operano con i loro uffici. Invece le altre città sono un po' tipo dei villaggi che hanno grandissime difficoltà di accesso, quindi sostanzialmente le persone fanno fatica a spostarsi, le strade sono prese dai ribelli o comunque da fazioni contrarie, quindi la gente non si sposta e la differenza quindi è che sostanzialmente il paese è frammentato, ci si può muovere solamente con dei voli umanitari. Questo significa anche che le ONG fanno molta fatica, le operazioni umanitarie, a soccorrere le persone. In realtà anche le statistiche che noi abbiamo sono statistiche approssimative, non si sa effettivamente quanto la popolazione sta soffrendo. Questa è una grande differenza rispetto agli stati vicini che sono in pace, in cui effettivamente gli operatori umanitari, le agenzie governative possono andare a intervistare pacificamente le famiglie. Invece in queste zone, come Wau, Rumbek, sono così isolate che è anche molto difficile capire cosa effettivamente sta succedendo. Ora, io ho incontrato diversi giovani di una scuola di gesuiti, perché sono andato giù come presidente del Magis, che è l'ONG dei gesuiti che sostiene le missioni della Compagnia di Gesù in Africa e in America Latina. Ora, andando giù, io ho parlato con diversi ragazzi della scuola, ho cercato di incontrare con loro, sono ragazzi che parlano principalmente la lingua locale, l'arabo e l'inglese, perché le scuole dove loro vanno, la scuola dei gesuiti, insegnano anche l'inglese. Allora, la loro difficoltà, mi raccontavano, è innanzitutto la sicurezza, loro non possono spostarsi da casa a scuola, è già quello un tragitto molto pericoloso. Sì. E questo mette anche, perché sostanzialmente la scuola sta in un territorio che è al confine fra i ribelli e l'esercito governativo. Sì. Quindi c'è tutto un problema di sicurezza, i ragazzi hanno paura a uscire di casa. La scuola invece è abbastanza tutelata, perché ci sono dentro la scuola sia ragazzi di famiglie dinka, cioè dell'etnia che governa, sia ragazzi di etnie non dinka. E il fatto che l'etnia sia promiscua aiuta, diciamo così, a far sì che l'esercito e i ribelli non toccano la scuola, ma ogni volta che i ragazzi si spostano rischiano. La voce che avete sentito e che state sentendo è quella di padre Renato Colizzi, che è presidente del MAGIS, l'ONG dei Gesuiti, che è particolarmente attiva in Sud Sudan, reduce da una missione di un paio di settimane. Vi abbiamo raccontato per sommi capi la guerra civile e anche le divisioni etniche in parte probabilmente spiegano appunto questa dinamica. Un'altra parola chiave che vi dicevo è sicuramente la parola petrolio, perché il Sud Sudan è ricchissimo di giacimenti. Nonostante questo, la guerra sta portando al tracollo l'economia del paese. Quanto le dinamiche etniche incidono sulla situazione in Sud Sudan? Renato Colizzi ancora una volta. Allora, qui bisogna andare un po' nella storia dell'indipendenza del Sud Sudan. Sostanzialmente, come diceva lei prima, è un paese giovanissimo. Nel 2011 il Sud Sudan si divide dal Sudan, una divisione che è stata il frutto di una guerra civile sanguinosa, anche quella, che è durata 20 anni, e che la principale etnia che ha portato questa vittoria, diciamola così, è stata l'etnia Dinka, che quindi nel momento dell'indipendenza ha occupato i posti di potere più importanti, a cominciare dal presidente Salva Kiir. Ora, il vicepresidente è stato invece dato all'etnia contrastante, l'etnia Nuer. Il problema è che appena queste cariche sono entrate effettivamente in ruolo, le divisioni etniche hanno preso il sopravvento e l'etnia Dinka vuole avere in tutti i territori, non solo quella dove l'etnia è maggioritaria, ma in tutti i territori vuole avere i ruoli di potere, cioè governatorato, controllo della polizia, sì, eccetera. Questo ha fatto sì che la popolazione civile, nel momento in cui si è vista sotto la longa mano dell'etnia Dinka, si è ribellata. All'inizio era una guerra civile, cioè fra Nuer e Dinka, poi Riek Machar è uscito perché si è visto minacciato. Sì, Riek Machar, ex vicepresidente oramai. Ex vicepresidente del Sud, sì, esatto, è scappato in Africa del Sud e sì, da lì guida, diciamo così, la ribellione fra zone governative e zone ribelli. C'è da dire però che il problema è anche la grandissima quantità di armamenti che gira nel paese, sì, per cui in realtà anche i civili si sono armati, proprio per l'altissimo numero di rappresaglie. Rappresaglie significa che uomini in divisa sconosciuti entrano in delle case, ammassano le persone, bruciano e buttano i corpi in fosse comuni. Questo sta vivendo la popolazione civile. Quindi cosa succede? La popolazione civile si arma, ma nel momento in cui la popolazione civile si arma, a questo punto l'insicurezza diventa assolutamente ingestibile. Infatti un sacco di giovani, cioè persone che vanno a lavorare nei campi, muoiono sostanzialmente neanche più per scontri fra eserciti, ma per vendetta fra famiglie, fra clan, perché nel momento in cui ho un'arma e uccido un contadino, ecco che il figlio, il cugino, lo zio di quel contadino viene nel mio clan e cerca la vendetta. Quindi questo è il grande problema anche dell'attuale situazione del Sud Sudan, il problema del disarmamento. Era padre Renato Colizzi, presidente di MAGIS, l'ONG dei Gesuiti, che ci ha restituito una drammatica fotografia del Sud Sudan, crisi che va avanti da tanto, troppo tempo, e la comunità internazionale impotente non riesce a risolvere, come ai noi molto spesso accade nei teatri africani. Adesso andiamo sulle strade italiane e poi ultima pagina, ancora africana, di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Andiamo in Sudafrica perché in queste ore, in questi minuti, è in corso la votazione del Parlamento sudafricano, che vota con scrutinio segreto una mozione di sfiducia nei confronti di Jacob Zuma, che è il presidente appunto sudafricano. Quanto è in pericolo la leadership e la figura di Zuma? Piccola scheda, poi vi introduco l'ospite di oggi. Il presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, sta affrontando in Parlamento un voto di fiducia che potrebbe potenzialmente porre fine al suo mandato. Il voto, deciso su richiesta delle opposizioni ieri pomeriggio, viene condotto a scrutinio segreto. Si tratta del quarto voto di fiducia al quale Zuma e il suo African National Congress si sottopongono in Parlamento. Nelle occasioni precedenti, il presidente è sempre riuscito a uscirne vincitore. Ma questa potenziale sfiducia, che arriva in seguito alla diffusione di una serie di mail confidenziali che mettono in luce i rapporti troppo stretti tra la leadership e il potente clan Gupta, una dinastia di imprenditori di origine indiana, arriva in un periodo di insoddisfazione all'interno dello stesso partito e in un clima di crescenti proteste nel paese, dalle quali il principale partito dell'opposizione, Democratic Alliance, sta cercando di trarre il massimo profitto politico. Per arrivare alla defenestrazione di Zuma, ben 69 deputati del suo stesso partito dovrebbero votargli contro. Un risultato che secondo molti analisti è improbabile. Ma anche se il presidente riuscisse a superare lo scoglio di oggi, a dicembre lo attende un congresso dell'African National Congress, che potrebbe definitivamente mettere in discussione la sua leadership. Questo è quello che sta accadendo in questi minuti, in queste ore, al Parlamento sudafricano. Prima la BBC stava trasmettendo in diretta uno stralcio di queste votazioni, lo ricordo, uno scrutinio segreto. Per capire meglio il significato di questo voto di fiducia, ci soccorre, ci aiuta il professor Rocco Ronza, che insegna geoeconomia, politica e multilinguismo all'Università Cattolica di Milano. Professor Ronza, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, leadership di Zuma intaccata comunque vada, oppure ha possibilità di, come dire, ricostituire, rispolverare e ridare lustro alla sua immagine il presidente? No, le aspettative sono proprio in corso, questo voto scrutinio segreto, che dovrebbe concludersi con un rigetto della mozione. Da quello che i commentatori locali nelle ultime ore dicevano. Sì. Dopo questo passaggio comunque la storia dell'uscita di Zuma dal suo ruolo di presidente e di leader dell'ANC proseguirà, e l'aspettativa vera è che sia in dicembre, in un momento interno al partito di maggioranza e non in Parlamento, che questo passaggio possa compiersi. Sì. È una lunga storia, perché praticamente dall'elezione nel 14, anzi è dai funerali di Mandela nel dicembre del 13 che il presidente, che poi viene rieletto nel 14 teoricamente fino al 19, è sotto tiro all'interno e all'esterno, direi quasi più all'esterno che all'interno, cioè che c'è una campagna da allora della grande stampa internazionale, finanziaria, soprattutto inglese e americana, che ha in qualche modo monitorato costantemente e anche caricato di significato politico tutte i guai giudiziari o paragiudiziari di questo presidente. È una storia quindi che probabilmente è arrivata al suo penultima tappa. Sì. Anche se appunto stiamo in politica, non si sa mai, per cui può anche succedere che qualcosa, un inciampo, arrivi prima. Però diciamo, l'aspettativa è che sia la penultima tappa di una storia che potrebbe finire a cavallo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Certo. Fra l'altro, io citavo prima il fatto che lo scrutinio avviene in modo segreto. Questo sarebbe un modo, nelle intenzioni del Presidente del Parlamento, di concedere anche a membri dell'African National Congress di esprimere il loro dissenso in maniera, diciamo, più tutelata. Però c'è l'altro attore, che è la Democratic Alliance, che, mi corregga se mi sbaglio, è un partito, come dire, ancora molto bianco, no? Come potrebbe trarre beneficio da questo voto e da questa messa in discussione del presidente Zuma? Ma questo è il punto, infatti, un motivo per cui oggi, nonostante lo scrutinio segreto, molti deputati dell'African National Congress già decisi a scendere dal carro di Zuma potrebbero aspettare ancora, è proprio che in Parlamento, e la mozione è stata presentata dalla Democratic Alliance, che rappresenta, ricordiamo, il 22% della popolazione, l'African National Congress ha avuto il 62%, e che sostanzialmente spaccherebbe il partito di maggioranza in un modo, vuol dire, che lo metterebbe in una crisi abbastanza seria. Meglio in qualche modo lavarsi i panni sporchi in casa e cambiare la leadership nel proprio congresso annuale, potrebbero pensare molti di questi, sì, di questi deputati. Ma il problema è più profondo, però, al di là del meccanismo politico di oggi o di dicembre, cioè che l'African National Congress rappresenta una maggioranza nera di fatto, che tuttora si identifica o con questo partito o con un partito di protesta populista e anche antipolitico. Io dico sempre che è qualcosa a metà tra Rifondazione Comunista di un tempo e i 5 Stelle, che è rappresentato da Julius Malema, sì, ma non certamente dalla Democratic Alliance, che i cui voti, per quanto crescano, sono in buona parte coincidono demograficamente con i voti delle minoranze bianca, meticcia, indiana, con una piccola fetta di voto nero nelle grandi città, nei ceti il nuovo ceto medio che si è spostato verso questo partito e che adesso si identifica anche col nome e il volto del suo nuovo leader giovane, che è stato scelto apposta per mostrare che questo partito è anche un partito per la maggioranza nera. Ma il Partito Sudafrica resta un paese che è profondamente, cioè è fatto di mondi diversi che sono ormai a contatto molto di più, aperti gli uni agli altri, ma restano profondamente divisi, e quindi è difficile che questo partito possa crescere al punto da prendere una maggioranza assoluta, come in fondo sembra tutta l'opinione pubblica sembra aspettare. È più facile che si vada verso una situazione di governo multipartitico coalizionale, che è nuova e complicata, e probabilmente il motivo per cui questa agonia di Zuma dura così tanto è che non è ancora pronto lo scenario successivo. Certo, ecco, fra l'altro, come dire, informazione di servizio per gli ascoltatori: non deve stupire il fatto che si parli di partiti a maggioranza bianca o maggioranza nera, rivendicazioni, perché se è vero che sono passati alcuni anni dalla fine dell'apartheid e di quelle pagine di storia sudafricana, è vero che alcune dinamiche resistono e sono potenti. Alcune città hanno delle divisioni in quartieri ancora molto nette, no, professor Ronza? Cioè bisogna far capire che il Sudafrica sta uscendo da una storia, ma quell'uscita è lunga. Beh, ma si dice, molti sociologi e economisti in modo provocatorio dicono che Sudafrica è un po' il laboratorio di un mondo, o perlomeno è il microcosmo di un mondo che è diviso tra ricchi e poveri in un modo che in buona parte corre anche lungo linee di colore. Quindi non è neanche forse realistico aspettarsi che queste differenze si cancellino, ma nel giro forse neanche di una generazione. Quello che è successo negli ultimi anni in Sudafrica, infatti, ad opera ed è il principale successo dell'African National Congress, non è stato il superamento di una distinzione e di un divario forte tra Sudafrica ricco e Sudafrica povero, è stata la multirazzializzazione del Sudafrica ricco, cioè la nascita di una componente della borghesia e della classe media sudafricana che è, a differenza che in passato, è nera. Ma la tensione tra questo primo e terzo mondo che coesistono dentro questo paese, molti dicono che è praticamente intatta, cioè che è quasi come la prima della fine della parte. Professor Ronzi, intanto tra gli ascoltatori c'è Massimo da Cagliari che mi e la solletica su un tema. Lei dice l'ascoltatore: la Democratic Alliance ha vinto le scorse elezioni a Johannesburg e a Pretoria, tra le altre cose. Va ormai oltre il voto bianco o territoriale nella sola città del capo. Non so se è d'accordo su questa notazione. La politica ormai è fatta molto in di comunicazione a tutte le latitudini. Quindi è vero, nel senso che questa è l'immagine che è stata proiettata e che la Democratic Alliance ha fatto di tutto per proiettare, però in realtà i numeri ci dicono che la componente che va oltre il voto bianco e meticcio della Democratic Alliance è sotto il 20%. Nelle grandi città, dove la presenza bianca soprattutto e in parte anche meticcia è percentualmente più alta, quindi lo zoccolo duro è più grosso, c'è stato un effettivo avvicinamento a questo partito da parte di settori diciamo così meno legati direttamente allo Stato e ai finanziamenti statali, che hanno in qualche modo preoccupati dell'andamento dell'economia, come il grosso della minoranza bianca, che sono transitati, ma in termini numerici sono considerati una specie di alba di un giorno che verrà. Sono stati abbastanza per spostare il voto in due grandi città, soprattutto come Pretoria, perché Johannesburg in realtà la Democratic Alliance è sotto come numeri all'ANC. Semplicemente il venir meno della maggioranza assoluta dell'ANC ha spinto tutti gli altri partiti, compreso gli Economic Freedom Fighters di Malema, che sono fortemente anti-bianchi, in modo molto più esplicito dell'ANC, a votare insieme, a dare astensione perché il sindaco fosse eletto dalla Democratic Alliance. Quindi una situazione in realtà che se si va a vedere poi nei numeri veri è meno meno clamorosamente cambiata qualche tempo fa. E perché resta? Perché la società sudafricana, nonostante abbia ormai il tabù della differenza razziale e etnica, chiunque la frequenti sa che è uno strano, per certi aspetti anche affascinante punto di contatto tra mondi diversi. Certo, e insomma, come diceva lei, è un formidabile laboratorio per il mondo che verrà. Grazie mille al professor Rocco Ronza, lo ricordo, insegna la Cattolica, geoeconomia, politica e multilinguismo appunto qui a Milano. Grazie mille professore, buona giornata, buon lavoro, e noi in tempo per i titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tali, Elisa Pancaldi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo, potete scriverci domande, commenti e suggerimenti anche su temi che vorreste fossero toccati nelle prossime puntate. La pagina Facebook è sul logo lontano-radio24. L'appuntamento è per domani, sempre ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.